nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia. Domenica 19 gennaio, il sole in regione è sorto alle 7.44 e tramonterà alle 16.53. Venerdì c'è luna nuova e siete all'ascolto di Vita nei Campi. Buongiorno da Armando Mucchino. L'ERSA ha da poco reso noti i risultati delle prove orticole sviluppate lo scorso anno. Una serie di informazioni e prodotti utili non solo agli orticoltori professionali, ma anche a chi coltiva il suo orticello di casa. Ne parliamo nel servizio di apertura per continuare sull'argomento con le tante orticole che si possono coltivare anche in questi mesi, che sfatano il luogo comune che l'inverno l'orto sia triste. Anche un po' di storia prima di arrivare alla produzione vera e propria del vino. Siamo arrivati al Medioevo, che per questa bevanda non è stato certo un periodo buio. Su sollecitazione poi di un ascoltatore, Antonino Danelutto ci parla di una varietà di pero, il Per Martin, una volta molto diffuso in regione anche per l'utilizzo invernale dei suoi frutti. Continua poi il viaggio nel mondo del maiale e dei suoi prodotti con il gran giorno della macellazione, un tempo giorno di festa con la dispensa per i bambini di andare a scuola, ma una serie di rituali e incombenze ben codificate erano d'obbligo. Di stagione la ricerca è l'ambito storico gastronomico che la supporta. Parliamo di fritole per passare all'andamento dei mercati agricoli e alle previsioni del tempo per la settimana entrante, con un breve contributo di climatologia locale, per finire con il proverbio friulano della luna. All'ERSA di Pozzuolo del Friuli sono stati presentati i risultati della sperimentazione orticola 2019. Si tratta della 20ª edizione di quello che ormai è diventato un appuntamento tradizionale per gli operatori orticoli e vivaistici regionali. Ai nostri microfoni Costantino Cattivello, tecnico dell'ERSA, che ha seguito tutte queste sperimentazioni e ci porta oggi i risultati principali. Si tratta di indicare quali sono le varietà più adatte ai nostri sistemi di coltivazione e alle richieste di mercato, chiaramente. Andiamo subito alle novità emerse dalla sperimentazione fatta. Abbiamo parlato innanzitutto di patata, asparago, finocchio, diserbo della cipolla e zucchino. Le prove su patata hanno confermato la validità delle varietà resistenti alla peronospora, un fungo che, come si sa, è molto pericoloso e costringe ad effettuare molti trattamenti antiparassitari. Le prove su asparago, invece, hanno confermato la bontà di certe varietà italiane e olandesi ed hanno messo in luce un cambiamento nei gusti del mercato, tanto è vero che stanno prendendo sempre più piede le varietà verdi e ultimamente anche le varietà violette. La prova poi su zucchino, che è stata condotta in primavera in serra, in tunnel freddo meglio, ha messo in luce alcune varietà interessanti per il loro ridotto sviluppo, la buona produttività e la resistenza ai principali funghi. A margine di questa prova è stata l'occasione anche per informare i produttori del possibile arrivo in regione di un terribile virus che sta falcidiando le produzioni di zucchino nel centro-sud Italia, il cosiddetto New Daily. Infine si è parlato delle migliori varietà di finocchio autunnale e delle ultime novità in fatto di diserbo della cipolla seminata e trapiantata. Ricordo che chi fosse interessato potrà trovare copia delle relazioni presentate visitando il sito ERSA www.ersa.fvg.it. E quali le prove in cantiere per quest'anno? Sono diverse, vediamo quali sono le tematiche principali. Innanzitutto, fornire indicazioni prontamente fruibili sulle varietà più interessanti di asparago, patata, carciofo, zucca e zucchino. Poi, valorizzare le produzioni locali con prove su aglio di Resia, fava di Sauris e radicchio da grumolo forzato. Ampliare le specie coltivate, a tal proposito verranno messe in campo prove sulla patata dolce e sull'ocra. Poi studiare substrati in grado di migliorare la produzione vivaistica orticola e viticola in vaso, riducendo drasticamente la concimazione, l'uso della plastica ed eliminando l'impiego dei regolatori di crescita chimici. Infine, studiare l'uso ottimale di biostimolanti naturali in grado di biofortificare, diciamo, le orticole e aumentare il loro valore salutistico. Ci c'è chi sostiene che in questo periodo dell'anno non c'è nulla di più triste che un orto. Cristina Micheloni per la rubrica del bio ci spiega perché non deve essere così. Per chi la verdura la compra al supermercato, i cambi di stagione sono difficili da percepire. Ed è idea comune che negli orti friulani in questa stagione regni la tristezza, illuminata qua e là e anche raramente da qualche verza e pochi gambi di radicchio amaro e coriaceo. Chi fa la spesa però, invece, almeno una volta alla settimana, una volta ogni tanto, direttamente dai contadini, ha ben presente quando il primo freddo rende profumati i finocchi, quando il ghiaccio fa dolce il radicchio e quando l'inverno invece molla la presa e le prime insalate prendono coraggio. Quando la primavera tocca l'estate ed è un trionfo di proteine sotto forme di piselli. Ma il luogo comune del triste friulano orto invernale e di conseguenza della triste dieta invernale del chilometro zero è duro a morire. Ma tanto per dire, radicchi, amplissimo plurale che include tipologie dal POC alle rose, rosa di Gorizia, dell'Isonzo, di ogni frazione dove ci sia un orticoltore che abbia voglia di farsene uno suo, le biete, verdi, bianche, rosse, gialle, cavoli, cappuccio di vari colori, rapa, nero, riccio, broccoli, friulano soprattutto, ma anche il romanesco oppure il siciliano. Insomma, ce ne abbiamo quante ne vogliamo, ma oltre i finocchi, la cicoria catalogna, il porro, gli spinaci e le verze. Insomma, triste non è per nulla. Non ci credete, ma per una volta forse abbiamo qualcosa da imparare dagli americani. È vero che sono uno strano gruppo di americani. Quelli di cui sto parlando sono quelli che nei giorni scorsi sono venuti a visitare le aziende in Friuli e in Veneto proprio per poter vedere e assaggiare radicchi, broccoli e cavoli. L'aspetto più interessante di questo gruppo è la multiattorialità, come si suol dire. Orticoltori, ma anche chef, selezionatori di sementi, giornalisti e cittadini, che sono venuti tutti assieme a visitare l'azienda, un'alleanza che noi facciamo fatica ad aggregare al di là degli slogan. Ne parliamo, ma poi non la vediamo quasi mai. Costoro invece stanno cercando attraverso la sinergia di migliorare il sistema agroalimentare che li circonda negli Stati Uniti. E invidiano tantissimo la nostra situazione. Loro hanno portato il radicchio a Seattle, fanno pure la sagra del radicchio. Ma è possibile che noi non riusciamo a portare i broccoli e i radicchi in tavola con continuità? Per la rubrica del vino con il professor Roberto Zironi, che insegna enologia all'Università di Udine, abbandonato l'antico impero romano, siamo arrivati al Medioevo. Secoli bui anche per vino e viticoltura? Quando parliamo di Medioevo parliamo di un'epoca di circa 1000 anni, che va dalla caduta dell'impero romano di Occidente sino alla scoperta dell'America. Quindi è difficile pensare che in 1000 anni non sia successo niente anche nel settore della viticoltura e dell'enologia. Sicuramente nei primi anni di questo periodo, quindi diciamo sino grosso modo all'Ottocento, le problematiche c'erano, per due motivi. Primo, parliamo prima di invasioni barbariche, poi parliamo di barbari stanziali sul territorio italico, che avevano innanzitutto interessi diversi da quelli dei romani anche dal punto di vista culturale. Le loro bevande erano diverse, non erano sicuramente il vino. Trovano il vino, lo apprezzano, ma si curano poco di mantenere la cultura del vino. Oltretutto, quando parliamo di viticoltura, parliamo di piante, di un vigneto, di piante che devono essere curate non annualmente ma per periodi lunghi, e quando i territori sono campi di battaglia o oggetto di scorribande da parte di predoni, diventa difficile pensare che si possa mantenere una viticoltura di un certo livello. Sicuramente la viticoltura viene mantenuta per due motivi. Diciamo che a partire dalla fine del Cinquecento una popolazione germanica, i Longobardi, entrano in Italia, conquistano il Veneto e si insediano a Cividale. Successivamente, un altro aspetto molto molto importante che si affaccia, diciamo, nella storia di quel periodo è che nel 480 a Norcia nasce un tal Benedetto, che rapidamente comprende come la sua vita successiva deve essere una vita contemplativa, per cui si ritira a fare l'eremita a Subiaco. Si trova però con altri, diciamo, giovani e insieme quindi fondano quella che praticamente è l'abbazia benedettina di Monte Cassino. Dato che non si parla più di una vita solitaria ma di una vita di comunità, Benedetto cosa fa? Organizza una regola. Cioè organizza praticamente un disciplinare di convivenza all'interno dei conventi. Oltre all'attività contemplativa c'è anche un'attività pratica. Un'attività pratica che si estrinseca praticamente come dire un mantenimento di quelle che sono le culture. Culture di tipo agricolo, poi cosa fondamentale, in tutti quei territori anche occupati dai barbari domina il cristianesimo e quindi il sacrificio domenicale o durante la messa prevede l'utilizzazione del vino. Per cui è gioco forte che il vino non possa scomparire, è una componente essenziale del rito religioso e quindi per questo motivo e per l'impulso dovuto al monachesimo anche all'inizio del Medioevo, in quello che viene chiamato l'Alto Medioevo, il vino non scompare. Il nostro ascoltatore Massimo Bisiacchi ci ha chiesto informazioni sul Per Martino, una varietà di pero diffusa soprattutto nella zona montana. Abbiamo girato la sua richiesta al nostro Antonino Daneluto, che oggi risponde. Se avete qualche curiosità o dubbio sulle piante della nostra regione, fatecelo sapere. Antonino Daneluto è ben felice di rispondere. Fra le innumerevoli varietà di pero ottenute via via nel tempo con ibridazioni e successive selezioni, merita ricordare il Per Martin, noto in Carnia e in gran parte del nostro territorio montano. Il suo nome è legato al periodo di raccolta dei suoi frutti, che avviene tardivamente in prossimità dell'11 novembre, festa di San Martino. Meno comunemente è detto anche Per di San Michele, mentre nel Canal del Ferro è chiamato Clozar e il frutto Cloze, così come nella Val Canale. Questa pianta, rustica e abbastanza longeva tanto da superare facilmente il secolo di vita, è alta oltre una decina di metri e sopporta agevolmente il freddo. Solitamente proviene da innesto ed è coltivata più frequentemente nell'area montana centro-orientale del Friuli, molto meno nell'alto pordenonese. La si incontra nei prati circostanti ai centri abitati oppure in quelli montani nei pressi degli stavoli. Ha corteccia ruvida, foglie lanceolate un po' pelose di sotto con margine leggermente seghettato. I fiori numerosi sono raggruppati in corimbo, hanno petali bianchi e antere rossastre. I frutti, di forma globosa, sono di dimensioni piuttosto ridotte, con buccia verde al momento del raccolto, marrone cuoio dopo qualche mese, quando, a completa maturazione, anche la polpa è marrone, non più dura e aspra, ma tenera e dolce. In cucina, il frutto del Per Martin, cotto e tritato, fa parte del ripieno dei chartreuse, noti ravioli carnici, o dei fagottini caratteristici della Val Canale, detti crape. Un altro uso consiste nel cuocere il frutto nel vino rosso, o, molto più frequentemente, nel forno con una spolverata di zucchero. Quest'ultimo utilizzo consentiva ad ambulanti carnici di andare a vendere per le vie della città, o nelle sagre, o nelle sale cinematografiche, o davanti agli stadi, le pere calde, i pettorai. Erano così chiamate, forse perché i recipienti di rame riscaldati da bracci che le contenevano erano appesi con delle cinghie sul petto, oppure perché da calde erano ritenute un blando rimedio contro la tosse. C'è ancora chi ricorda come, fino alla fine degli anni 50 del secolo scorso, al grido di «Pettorai, per i pettorai!» venivano vendute le pere cotte, zuccherate e infilate in uno stecchino. Un altro impiego consiste nella torchiatura delle pere per ottenere un ottimo sidro, il most, che, stando a vecchi consigli, deve essere prodotto in giornate di luna vecchia, serene e senza vento. I residui della spremitura, opportunamente fermentati, possono fornire un'ottima acquavite. Dopo una serie di puntate introduttive, Adriano Del Fabbro, che ci cura la rubrica dell'universo suino, oggi inizia a parlarci della trasformazione delle carni. Entra nel vivo, comunque. Trattandosi spesso di un contadino, prima di recarsi presso la famiglia in cui doveva essere eseguita la macellazione, il purcitar doveva regolare le vacche della propria stalla, per cui la sveglia era anticipata alle 4 del mattino. In ogni caso, poco dopo le 5, il norcino aveva già raggiunto la sua destinazione stabilita. Nel cortile il fuoco per l'acqua da bollire era acceso e c'erano la famiglia e gli aiutanti occasionali che ne attendevano l'arrivo. La nonna portava fuori il caffè con la grappa e nel frattempo si dava un'occhiata che tutto fosse pronto nella stanza adibita alla macellazione. Era la nonna, ancora, che entrava per prima nel porcile poiché per molti mesi aveva dedicato le proprie cure all'animale che stava ingrassando. Una volta morto e dissanguato completamente, il purcit veniva steso orizzontalmente su un supporto sollevato da terra. Poi, con l'aiuto dell'acqua bollente versata delicatamente, il corpo veniva lavato alla perfezione, ma senza scottarne la carne. Con dei raschietti un po' speciali si procedeva a fargli la barba, eliminando completamente le setole dalla cotenna. Della raschiatura dei peli si occupavano gli aiutanti, sotto il controllo dei norcino, poiché doveva essere eseguita alla perfezione. L'operazione durava poco meno di mezz'ora, le ultime setole rimaste venivano bruciacchiate perché non finissero negli insaccati e la cotena rimanesse perfettamente liscia e pulita. Le setole del maiale spettavano di diritto ai ragazzi, con il modesto ricavato della vendita allo stracciaio si compravano qualche dolcetto. Nel frattempo le donne iniziavano la preparazione delle budella acquistate che dovevano essere raschiate e pulite per bene per accogliere gli impasti. Una volta staccata la testa si toglievano l'interiora e si dava uno sguardo d'insieme per capire l'anatomia e la composizione del suino. Dai proprietari partivano i primi commenti improperi se era troppo magro, ad esempio. Il grasso una volta era importante, non solo per la qualità del salame, ma anche perché ne serviva una certa quantità per gli utilizzi culinari quotidiani, friggere le patate, fare il pestato per condire, ad esempio. Il lardo vero e proprio, quello della schiena, finiva nei salami, o in parte per condire il radicchio. Il grasso della pancia nei cotechini. Il norcino si toglieva gli stivali, si cambiava l'abito sporco di sangue, si infilava i caldi e asciutti zoccoli di legno, indossava il grembiulone di tela bianca o di sacco ed era il momento di passare alla lavorazione fine, che si svolgeva non più all'esterno, ma all'interno della stanza già attrezzata e riscaldata. Le frittole sicuramente sono un dolce di stagione, con una storia e varianti sconfinate, come ci dice oggi Roberto Zottar. Con le ciacole non s'impasta frittole. Su un dolce de casa più vecchio del cucco, nessun mamaluco può dirme de no. No cori ricette, no cori programma, qualunque sia mamma la sa preparar. Ua passa e farina, pignoi e sedrini, e vece bambini e le brama de ver, nell'olio ben caldo, rotonde sgionfete, par tante valette che nuda nel mar. Questa filastroca triestina ci ricorda le frittelle di carnevale, la cui stagione era già iniziata a Natale, secondo il detto, per Nadal frittole, per Pasqua pinza e titole. Le frittole sono presenti in regione fin dai tempi della deduzione di Aquileia del 181 a.C., anche se le frittole dei nostri giorni potrebbero essere definite un dolce di ritorno, dato che la ricetta attuale a base di lievito è diversa da quella dei globi romani del Liber de Agricoltura di Marcio Porcio Catone. La ricetta corrente, affinata poi in Oriente con l'eslebia, ci è giunta da Venezia, dove è arrivata tramite Giambonino da Cremona con il suo Liber de Ferculis del XIII secolo, e da allora è rimasta pressoché invariata. A Trieste nel 400, in occasione di Corte Nova, cioè l'entrata ogni 4 mesi dei nuovi ufficiali del comune, si faceva una festa pubblica con la distribuzione di frittelle. Nei resoconti di viaggio di fine 1400 in Carinzia e Carniola di Paolo Santonino, cancelliere del Patriarcato di Aquileia, sono menzionate le famose frittelle piene di vento, descritte anche dal maestro Martino. Santonino in tedesco le chiama Nonnenfurzen, cioè peti di monaca, termine che viene ripreso da molti testi rinascimentali e manoscritti di cucina di conventi di area germanica. Nel 1619 a Venezia venne creata perfino la Corporazione dei Frittoleri, composta da 70 membri, per difendere il mestiere e per aver diritto a tramandarlo ai figli. E Carlo Goldoni fa di una frittolera la protagonista della commedia Il Campiello e Pietro Longhi dipinge una famosa tela chiamata La venditrice di frittole. Si dice comunque: le frittole se come le putele, più se ne fa, più le se bele. Ma anche le frittole se come le donne, se non le se tondo, un poco grassotto, non le se bone. Siccome però le ciacole non impasta frittole, vi racconto subito la ricetta delle splendide frittole de ricotta di Graziana di Trieste. In un mixer mettete 3 uova, 2 etti di farina, un cucchiaio di frumina, 5 cucchiai di rum, una bustina di lievito e 3 etti di ricotta. Frullate per un minuto e aggiungete a mano un etto di uvetta rinvenuta in acqua calda e dei pinoli. In una pentola capiente con olio di semi caldo, friggete l'impasto preso con un cucchiaino. Quando sono dorate, giratele e fatele ridorare. Scolatele, mettete su carta dei fritti, si servono con zucchero a velo. Buon appetito! E con Amos D'Antoni l'andamento dei mercati agricoli. Andamento sostenuto venerdì scorso alle contrattazioni cerealicole della Camera di Commercio di Udine, dove il mais con umidità 14% è stato quotato tra 16,10 e 16,30 euro al quintale IVA esclusa, la soia tra 34,50 e 34,80, l'orzo con peso specifico 60,63 tra 16,10 e 16,60 e il frumento tra 18,70 e 19 euro. Rispetto ad un anno fa il mais è diminuito di 80 centesimi il quintale e la soia è aumentata di 1,10 euro. Mercato fermo nel comparto dei bovini da macello, con le vacche fine carriera di prima qualità pagate a peso morto tra 2,40 e 2,90 euro al chilo IVA esclusa, quelle di seconda tra 1,80 e 2,40. Contrattazioni in salita invece nel settore dei vitelli da ristallo, con i blubelga maschi quotati tra 6 e 6,40 euro al chilo IVA compresa, i pezzati rossi tra 4,20 e 4,60, i frisoni tra 1,40 e 1,70 e i bruni tra 1,50 e 1,70. toni con tendenze diversificate nel comparto suinicolo, con il valore della tonzoli di 30 kg franco partenza in crescita, fissato a 3,30 euro il chilo IVA esclusa, e i grassi da macello in lieve calo a 1,53. In movimento il settore dei foraggi, dove il fieno mazengo di pianura e l'erba medica vengono pagati in media tra 19,60 e 20,20 euro il quintale IVA esclusa, mentre la quotazione della paglia di cereali pressata oscilla tra 12,70 e 13,20. Infine, tendenze incerte nel mercato degli avicunicoli, con i poli a terra pagati tra 0,87 e 0,89 euro al chilo, i tacchini maschi tra 1,45 e 1,47, le faraone tra 2,25 e 2,29, le anatre tra 2,45 e 2,49, i conigli oltre 2,5 kg quotati da alcun di Verona in calo tra 2,30 e 2,36, mentre il prezzo delle uova oltre 73 grammi è di 14 centesimi il pezzo. Con il previsore dell'ARPA Osmer Marcellino Salvador diamo ora un'occhiata al meteo per la settimana entrante, più un breve contributo di climatologia locale. Ieri è passata la prima perturbazione dell'anno che ha portato solo deboli precipitazioni. Per il resto, gennaio finora è stato caratterizzato da alta pressione, bel tempo, tanto sole e poco vento, a causa del persistere dell'anticiclone, con aria relativamente calda e secca in quota. Infatti, in quota abbiamo registrato finora temperature 4 gradi oltre la norma sulle stazioni meteo posizionate intorno ai 2000 metri. Nei fondovalle e in pianura, invece, le temperature medie sono state nella norma, grazie alle notti ancora lunghe che col cielo sereno hanno favorito il raffreddamento per irraggiamento del suolo e compensato le temperature diurne che spesso non sono state superiori ai 10 gradi in pianura. Sulla costa la temperatura media per ora è un grado più alta del solito. E questo è determinato dal mare che continua a far registrare record di caldo e dopo aver toccato i 13 gradi a Trieste il 1 gennaio, cosa mai successa in passato in questo mese, ha stabilito poi anche il record di temperatura media della prima decade con 12,4 gradi contro i 12,2 gradi del gennaio 2001. Molto probabilmente stabilirà anche il record della temperatura media della seconda decade superando gli 11,2 gradi del 2014. Passando alle previsioni, domani avremo l'afflusso di bora piuttosto fredda e sostenuta sulla costa. Il cielo sarà poco nuvoloso e lo zero termico a soli 700 metri di quota, per cui farà decisamente freddo sui monti. Le temperature massime in pianura si avvicineranno ai 10 gradi, mentre sulla costa ci si fermerà sui 7. Da martedì l'anticiclone con aria relativamente calda e secca in quota riporterà il cielo sereno. Il vento si attenuerà e avremo intense gelate in pianura e nelle valli, mentre le massime su pianura e costa saranno intorno agli 8-9 gradi. Nella seconda parte della settimana le temperature tenderanno leggermente ad aumentare e il tempo rimarrà sereno almeno fino a venerdì. Come sempre vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti delle previsioni che l'Osmer ARPA elabora e che vengono diffuse anche dai notiziari radio regionali della RAI, nonché in TV con Buongiorno Regione, sul sito www.meteo.fvg.it e sulla telefonia mobile. Termina qui la puntata. Anche oggi vogliamo lasciarvi con un proverbio friulano dedicato alla luna, alle credenze, ai suoi influssi in agricoltura e non solo. Luna pelosa, giornada ploiosa, ovvero una luna pelosa con immagine sfilacciata promette una giornata piovosa. Coordinamento tecnico di Daniel Aposto, il nostro indirizzo mail è vitaneicampi@rai.it. Potete trovarci su Facebook e sul sito della TGR del Friuli Venezia Giulia. Armando Mucchino e tutta la redazione vi ringraziano e danno appuntamento a domenica prossima. Avete ascoltato? Vita nei campi. Settimanale per gli agricoltori del Friuli Venezia Giulia.